Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Credevate che Spider-Man fosse un personaggio della fiction, dei fumetti? Non è così, esiste veramente. Benvenuti a Möbius, ne parliamo fra poco. I titoli, adesso. La domanda degli ascoltatori. Come fa un ragno a iniziare la sua ragnatela? Noi abbiamo la risposta e si parlerà di Spider-Man. Scoperto Australopithecus sediba. Ne parlano già come dell'anello mancante nell'evoluzione umana. È davvero così? Sentiamo gli esperti. Biciclette elettriche senza elettricità e bracci di robot che impazziscono. Seconda puntata, sul controllo automatico. Fra una settimana a Firenze si parlerà di energia. Noi vi anticipiamo due temi: il geotermico e le aree del mondo che l'energia non ce l'hanno. Come insegnare la scienza a un bambino di 3 anni? Un gruppo di educatori bolognesi ci sta provando davvero e ha scritto un libro. Arriva l'anno della luce, ma sarà nel 2015. Lo deve decidere l'ONU. Ciao Chiara, buonasera. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Ragni. Per si forza parla di ragni. Sì, ho iniziato così e quindi ci tocca i ragni. Non di aracnofobia, eh? No. Parliamo di ragni perché è arrivata una domanda. La domanda di Massimo. Ascoltiamola. Come fanno i ragni a fare ragnatele lunghissime da un albero all'altro? Come fanno a tirare il primo filo? Massimo. Come fanno? Abbiamo provato a risolvere la redazione, però abbiamo dovuto chiamare l'esperto. E lo facciamo volentieri, Emanuele Biggi. Buonasera Biggi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Möbius. Buonasera Möbius, esperto, il nostro aracnologo. È il nostro aracnologo, esperto anche perché ha un sito anura.it che tratta di ragni e anche di altre cose, perché tu fai molte foto, no? A natura, insomma. Mi occupo di fotografia naturalistica, di comunicazione scientifica in genere, quindi il sito chiude un po' tutto quello che è il mio lavoro, la mia passione anche. Vabbè, qui però bisogna capire questa cosa. La domanda di Massimo. Cioè, via, rispondiamo. In pratica il concetto principale, il motivo per cui i ragni riescono a tessere tele in posti anche apparentemente impossibili, no? Da un punto all'altro di un canyon, per esempio. Ci riescono perché semplicemente iniziano a tessere questo primo filo di seta che viene trasportato dalle brezze, dai venti, e quindi prima o poi il ragno spera questo filo si appiccicherà, si attaccherà, si impiglierà da qualche parte, permettendo al ragno di costruire quella che è la prima struttura, il primo telaio, diciamo, su cui poi costruirà la ragnatela che tutti noi conosciamo. Quindi senza vento non avremo le ragnatele. Aspettano, però il vento la c'è. Folata. Ovviamente, poi chiaramente fa tutto il fatto che la ragnatela ha queste sue particolarità, queste sue proprietà, come il fatto di essere comunque in parte appiccicosa, ma non solo, anche molto resistente. Si dice che sostanzialmente è stato calcolato che la ragnatela, con le dovute proporzioni di dimensioni, dimensionali, è circa una decina di volte più resistente dell'elastica e dell'acciaio e 70% circa più robusta ed elastica del Kevlar. Caspita. Quindi è una sostanza che ha anche molto interesse dal punto di vista umano per lo sviluppo di nuovi tessuti e attrezzature ad alta resistenza, sostanzialmente. E rimaniamo nel tema delle ragnatele, perché c'è una notizia freschissima proprio di questi giorni, per cui sembrerebbe che Spider-Man, il famoso eroe dei fumetti e anche del cinema, esiste davvero. Cioè esistono veramente dei ragni che sparano la tela dalle zampe. Dici? Sì, guarda, è una cosa abbastanza molto recente come scoperta. Un gruppo di ricercatori americani ha scoperto in pratica che sulle zampe, proprio al termine delle zampe dei ragni, esistono delle microfiliere. Le filiere sono gli organi con cui i ragni tessono normalmente la loro seta e si trovano all'estremità dell'addome. In realtà hanno scoperto delle microfiliere, si potrebbe dire, in prossimità delle zampe, con le quali questi ragni riescono secernendo quella che probabilmente è una sostanza simile alla seta, non è detto che sia proprio la stessa seta, ma che gli serve sostanzialmente per stare attaccati anche a superfici verticali senza rischiare di cadere. Questo succede soprattutto perché in questi ragni grossi tropicali, queste specie di peluche con i denti veleno, sì, quelli grossi e pelosi dei film, insomma. Ma i peluscioni da film. Questi sono ragni che pesano anche 50-60 grammi, quindi il cadere per loro significherebbe quasi sempre morte certa. Quindi, oltre ad avere dei piccoli uncini per aggrapparsi meglio, hanno anche questa possibilità. Lanciano delle tele che però servono non tanto per fare la ragnatela, ma per fare piccole per ragnatele per rimanere attaccati. Sì. Sì, queste sono talmente piccole che a occhio nudo non si possono neanche vedere. Sono state infatti scoperte grazie all'uso di microscopi abbastanza potenti che hanno guardato dove il ragno era appena passato e quindi hanno scoperto che esisteva questa sostanza che viene emessa. Ed è anche per questo che non l'avevano scoperto prima, cioè nel senso che veramente quando è stato creato il personaggio di Spider-Man questa cosa veramente non si sapeva. Questa caratteristica. Certamente Stan Lee non poteva immaginare che creando Spider-Man avrebbe praticamente precorso i tempi di una scoperta scientifica. Poi. Ma non è che hanno la tutina rossa, perché a volte i ricercatori si fermano su un particolare e poi questi ragni qui hanno la tutina. Non sono blu e rossi, questo lo sappiamo. Sì, e la specie che è stata studiata di più, questa Fluffy, no? Che è citata nelle pubblicazioni... effettivamente è rossa e nera. Richiama vagamente la Ci sarà un sequel. Era evidente. Grazie Emanuele, hai risposto esaurientemente. Tuo sito anura.it. Sì, anura.it, mi trovate anche cercando Emanuele Bigi su Google eventualmente se non vi ricordate il sito. Va bene, grazie. Ciao Emanuele. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata. Perché stiamo promuovendo un po' di blog scientifici, un po' di siti scientifici. Sì, e questo devo dire che è proprio bello, proprio interessante. Bello. Sì. E poi aggiungo una cosa, se anche voi ascoltatori che ci state sentendo in questo momento volete mandarci le vostre domande, fatelo a moebius@radio24.it oppure sul profilo di Facebook Moebius Scienza. Credevo le vostre ragnatele. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Piacere, mi chiamo Australopithecus Sediba. Oh, molto piacere, sono molto contenta di conoscerla di persona. Così. Te piacerebbe? Sarebbe stupendo, pensa che bello sarebbe. Oh, qualcuno che allora non lo sapeva, ma che adesso noi l'abbiamo rinominato, che si chiamava, avrebbe potuto chiamarsi così, cioè, sì. Grande notizia degli ultimi giorni. È una grande notizia di settimana scorsa, perché è una notizia che ha guadagnato anche la copertina di Science, con numerosi articoli all'interno, in cui vengono descritti due scheletri che sono stati trovati parziali, quindi non completi, in una grotta a 40 km più o meno da Johannesburg, quindi in Sudafrica, e ha fatto molto discutere questa scoperta, perché qualche paleontologo più scettico, qualcuno un po' meno, ha un po' azzardato l'ipotesi che potrebbe essere il famoso anello mancante. Ma noi, proprio per questo motivo, siccome c'è un po' di confusione in giro, ci sono tanti articoli, alcuni molto molto belli, fatti bene, altri un pochino confusi, abbiamo preferito approfondire con due esperti che sono indiscutibili. Telmo Piovani, buonasera Piovani. Buonasera a voi. Che è anche autore della Vita Inaspettata, edito dalla Raffaello Cortina, poi ne parleremo di questo bel libro, e poi Giorgio Manzi, buonasera Manzi. Salve a voi. Che è docente di storia naturale dei primati alla Sapienza di Roma e anche lui autore del libro Evoluzione Umana, edito da Il Mulino, appunto sempre inerente al tema. E invece Piovani è all'Università Bicocca di Milano. Allora, io inizierei magari chiedendo al paleontologo, al professor Manzi, che importanza ha questa scoperta e che cosa hanno rinvenuto questi paleontologi che tanto hanno fatto discutere in questi giorni. Sì, e anche cosa sarebbe questo anello mancante che si cerca, se ne parla sempre quando si parla di evoluzione, no? Iniziamo dall'importanza di questi reperti, sono indubbiamente reperti molto importanti. Capita spesso di sentir parlare di reperti paleoantropologici importanti, ma questi effettivamente lo sono davvero per vari motivi. Uno, perché sono tanti reperti. Qui siamo in presenza invece di due scheletri, anche se parziali, incompleti, ma già sappiamo che ce ne sono altri nello stesso sito. Un sito molto ricco, sì. Sì, è un sito davvero molto ricco, si annuncia come uno dei siti più ricchi tra tutti quelli di cui abbiamo a disposizione per molti milioni di anni, che sono i milioni di anni della nostra storia più antica, e dove potremo studiare, e si è già iniziato a farlo ovviamente, anche la variabilità tra gli individui. Noi spesso eleggiamo un singolo reperto a rappresentante di un'intera specie, qua abbiamo invece un'idea di variabilità all'interno di una popolazione. L'altro motivo che aggiunge ulteriore interesse è che siamo in una fase cruciale della nostra storia evolutiva, cioè siamo intorno a quei fatidici per noi 2 milioni di anni fa, ecco, intorno ai quali ruota un passaggio decisivo per la nostra storia, che è la comparsa di quello che noi chiamiamo il genere Homo. Che è il nostro. Specie. No, esatto, il nostro genere, non la specie Homo sapiens a cui noi apparteniamo, certo. Ma il genere, cioè un'entità più ampia al quale appartiene Homo sapiens e anche tante altre specie ormai estinte, a cui però non appartengono questi reperti, o almeno l'attribuzione che i nostri colleghi sudafricani al momento hanno dato a questi reperti non è Homo ma è Australopiteco. E questo ci dice parecchie altre cose a proposito, ecco, dell'idea di anello mancante, ma magari ne parliamo tra un attimo. Parliamone subito, perché questo è un po' il giallo all'interno di questo tipo di ricerche, no? Che cosa sono esattamente questi nostri antenati? Bene, allora dicevamo, siamo all'alba del genere Homo, all'origine del nostro stesso genere, un paio di milioni di anni prima di quando poi apparirà la specie Homo sapiens, ma secondo i nostri colleghi sudafricani questi resti così importanti dal sito vicino Johannesburg apparterebbero ancora al genere Australopiteco. Già questa incertezza, Australopiteco Homo, ci dice che siamo proprio in un momento di passaggio, cioè in un momento in cui ancora sono forti i caratteri delle forme nostre antenate precedenti, che appunto attribuiamo al genere Australopithecus, che conosciamo ormai da diversi decenni, dagli anni 20 del secolo scorso, quando un primo reperto fu proprio scoperto lì in Sudafrica, e il genere Homo, cioè il genere a cui noi apparteniamo. Quindi siamo tra delle scimmie antropomorfe bipedi, che potremmo chiamare il genere Australopiteco, e delle forme, cioè il genere Homo, che incominceranno un'altra storia, che è quella della cosiddetta encefalizzazione, cioè lo sviluppo del cervello, delle dimensioni e delle facoltà, diciamo così, più nobili che ci caratterizzano. Quindi l'idea, diciamo così, di anello mancante rivista in salsa terzo millennio, cioè non l'anello mancante di cui parlavano i nostri maestri dell'Ottocento, né la fuorviante idea di anello mancante che si è sviluppata poi nel Novecento, quando si pensava all'evoluzione umana come una catena, una sequenza di specie una presso all'altra, ma anello mancante semmai nel senso che siamo di fronte a una forma di transizione, una forma di passaggio tra l'Australopiteco e Homo. Già i paleontologi della scoperta ci dicono, appunto avendolo chiamato Australopithecus sediba, per tutte le caratteristiche che non abbiamo detto, nel senso che nella descrizione di Science c'è scritto che aveva un cervello piccolo ma delle braccia lunghe, anche la postura sembrava semibipede, insomma per tutte queste caratteristiche probabilmente hanno deciso di classificarlo come tale. E ora sentiamo Telmo. Telmo, ma qui che cos'è che c'è in gioco? Il fatto che da questi resti si parla magari di qualcosa che avrebbe potuto diventare una specie laterale alla nostra, non ce l'ha fatta e si è spento. Si parla sempre dei famosi rami secchi. Dei rami secchi. Eh sì, questa è una delle questioni, anche se è difficilissimo naturalmente rispondere e trovare un'ipotesi davvero prevalente rispetto alle altre. Io aggiungerei che Sediba è importante perché questa forma di transizione, l'ho già detto molto bene Giorgio Manzi, è un mix di caratteri unici ancora una volta. Questo è interessante perché ormai il quadro dell'evoluzione umana si è allontanato molto dall'idea che gli adattamenti si accumulano, no? In modo progressivo di specie in specie. Sembra piuttosto una sorta di esplorazione in cui ciascuna specie è portatrice di un mix tutto suo di caratteri un po' arcaici, diciamo arboricoli, in questo caso appunto da australopitecina, che quindi prevalgono, diciamo, nella classificazione scelta dagli scopritori, e caratteri invece più moderni o innovativi che poi si trovano anche nel genere Homo. Questo è un aspetto fondamentale. L'altro, che è stato sottolineato peraltro molto precisamente dagli stessi scopritori, da Lee Berger per esempio. Berger ha scritto una cosa interessante, lui dice: beh, forse dobbiamo abituarci all'idea che le forme di transizione non siano quasi mai singolari, cioè loro propendono per l'idea che il passaggio dalla fase australopitecina a quella Homo sia avvenuta, loro dicono, a mosaico, cioè attraverso forse più specie in territori diversi. E questo è molto interessante perché aumenta tantissimo il grado di complessità, certo, e anche di interesse di queste storie, no? Dove non c'è una specie solitaria che in modo eroico, diciamo, è portatrice di grandi innovazioni, ma appunto una storia a mosaico. Certo. E poi dietro ovviamente c'è anche una questione patriottica o non so come dire, perché nella scienza conta anche questo. C'è una grande controversia che dura da decenni sul fatto se il genere Homo abbia avuto origini in Etiopia, cioè nella, diciamo, nel Corno d'Africa, oppure in Sudafrica. Sì. E quindi è chiaro che questi scienziati adottano Sediba non senza qualche ragione per far propendere per un'origine verso meridionale, Sudafrica, diciamo, del genere Homo. Ecco, ma a proposito appunto di queste transizioni sfumate, oddio, io e Chiara ti conosciamo da tempo, per carità, voglio dire, non è che un'amicizia viene a essere rotta, però sono momenti difficili per la nostra specie in questi anni, insomma in questi mesi. Tu nel tuo libro addirittura dici che veniamo fuori dal topo ragno, no? Che non eravamo previsti addirittura. Non, e non eravamo nemmeno previsti. Adesso purtroppo credo che scientificamente si possa dire questo. Potevi trovare qualcosa magari di un po' più nobile, un bufalo, no, il topo ragno, tremendo. È un dato, come dire, di realtà, nel senso che se noi ci focalizziamo intorno a 65 milioni di anni fa, che è un'altra epoca fatidica dell'evoluzione in cui si estinguono quasi tutti i dinosauri, tranne quelli che poi danno origine alla famiglia degli uccelli, lì i mammiferi sono già abbastanza diversificati, ma come ha scritto Richard Dawkins, in fondo erano tutte variazioni sul tema toporagno, e quindi prendiamolo per quello che è, non è poi così avvilente. Senta Manzi, ma com'è che poteva essere... Come avrebbe potuto essere questa situazione per cui avevamo di fianco a noi... Un australopiteco. Evoluto però. Si sarebbe potuto evolvere se le condizioni ambientali o evolutive, ad esempio, lo avessero permesso? Da un lato appunto c'è l'ipotesi del fiancheggiamento, chiamiamolo così, proposta dai sudafricani. Cioè che ci siano vari tentativi, come diceva Telmo un attimo fa, di diventare uomo o comunque tentativi di... passaggio da una locomozione bipede incompleta a una più sviluppata, da un cervello piccolo a un cervello più grande e così via. Oppure si potrebbe anche pensare che, visto che l'evoluzione spesso è molto legata a contingenze, la contingenza si sia verificata una volta, in un caso particolare, in una popolazione abbastanza circoscritta, e che il genere Homo in realtà sia nato o in Sudafrica o in Africa orientale. Dato che abbiamo segnali che in Africa orientale i toolmakers, cioè i produttori di manufatti, perché una cosa che non abbiamo detto è che a fianco all'inizio del fenomeno dell'encefalizzazione si sviluppa il paleolitico, cioè si sviluppa la presenza, no, di questi manufatti in pietra. Gli strumenti. Ecco, dato che i più antichi manufatti in pietra sono in Africa orientale e mezzo milione d'anni prima di Sediba, a me verrebbe più spontaneo pensare che Sediba sia un etiope emigrato in Sudafrica. Oh. Cioè che il genere certo. Homo possa essere comparso in Africa orientale e si sia poi diffuso come verso il nord, fuori dall'Africa addirittura, e così verso sud, cioè verso il Sudafrica. Grazie professor Manzi. Grazie a voi. Buonasera. Grazie Pievani. Grazie Pievani. A voi. Buon prossima. Viaggio. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Già la scorsa settimana vi ho parlato di controllo automatico, perché c'è stato il grande congresso mondiale di coloro che fanno ricerca in questo campo a Milano ai primi di questo mese, disciplina pervasiva che però non sappiamo di avere intorno con le sue applicazioni. In breve, i dispositivi che sono progettati con la logica del controllo automatico sono quelli che lanciano dei segnali intorno a sé, ricevono delle risposte, adeguano il comportamento del marchingegno al quale sono applicati sulla base appunto dei segnali ricevuti. Prova e riprova per ottenere una certa efficienza, detto molto brutalmente. Anche noi usiamo come macchina i principi del controllo automatico. Doccia, acqua troppo fredda, correzione, no, troppo calda, rigira la manopola, ok, la temperatura è giusta. Al convegno dei controllori automatici ho incontrato Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, dove dirige un centro di ricerca sui mezzi di trasporto, e che cosa aveva lì? Dunque, io adesso salgo su questa bicicletta che è una bicicletta elettrica. Voi mi dite che è una bicicletta elettrica, però questo vorrebbe dire che dovrei avere poi qualcosa per attaccarla a una presa di corrente, ma qui non vedo niente di tutto ciò. Allora, in che senso è elettrica questa bicicletta? Questa bicicletta è una bicicletta speciale, elettrica nel senso che ha un motore elettrico, lo vede nel mozzo anteriore della ruota, è molto piccolo ma comunque c'è. Si vede, sì. Una batteria, la vede nel codino, anche lì è molto piccola, l'abbiamo colorata di verde per evidenziarla, ma è molto piccola, e un'elettronica di controllo che abbiamo messo nella parte inferiore della bicicletta. Quindi la bicicletta è elettrica nel senso che ha tutte le componenti della bicicletta elettrica, ma non si attacca mai alla rete, nel senso che non ha bisogno di essere ricaricata attraverso la rete e è in grado di mantenere un certo livello di carica autonomamente usando semplicemente l'energia del guidatore. Quindi da questo punto di vista è identico a una bicicletta tradizionale. Noi la chiamiamo infatti Bike Plus, qualcosa di più di una bicicletta normale, ma non è la classica bicicletta elettrica che io sono costretto a caricare alla rete quando torno a casa, quindi posso anche dimenticarmi che è una bicicletta elettrica. Cioè, mentre io pedalo normalmente usando questa bicicletta, carico un po' le batterie. Queste batterie allora sono fatte in modo che non si scaricano mai completamente? Ecco, qui la cosa difficile è stata quella di trovare anche qui la logica di controllo automatico per scaricare e ricaricare le batterie. Questa è la cosa che è stata molto difficile da fare. Quindi queste batterie non si scaricano mai completamente perché questo cervello elettronico decide in alcuni momenti di scaricarle, quindi di aiutarmi, in altri momenti decide invece di ricaricarle, quindi diciamo di catturare una piccola fettina dell'energia che le mie gambe stanno dando. Con che logica facciamo questa cosa? Quindi questo è stato il difficile. Abbiamo scoperto insieme con l'aiuto della Mapei Sport, che è un prestigioso centro di medicina sportiva che sta qui vicino a Milano, che il motore umano, in modo molto simile ai tradizionali motori benzino diesel, è un motore che trasforma l'energia, in questo caso non è la benzina ma è il panino al prosciutto, in energia meccanica con efficienze molto diverse. Quindi in alcuni casi il panino al prosciutto diventa diciamo forza sul pedale in maniera molto efficiente, cioè gran parte dell'energia che io ho assunto diventa effettivamente energia meccanica. In altri casi lo fa in modo poco efficiente, quindi solo una piccola parte di quell'energia che ho assunto si trasforma in energia meccanica. Giocando su questa differenza, su questi salti di efficienza, quello che noi facciamo è di catturare energia quando il nostro motore, quindi il motore umano, è ad alta efficienza, restituendola quando invece il motore umano è in difficoltà, quindi diciamo è a bassa efficienza. Mi viene da dire che se sto pedalando su un punto di salita anche cittadino, lì forse non sono molto efficiente, mentre invece su un rettilineo tranquillo lì lo sono, è così? È esattamente così, diciamo in linea, diciamo, detto in modo semplificato, la logica è quella, quindi ci sono le fasi cosiddette anaerobiche, quindi gli sforzi impulsivi, le partenze, la salita, quindi sono tutte fasi in cui il nostro motore è in difficoltà. In quelle fasi è utile aiutarlo, le fasi invece in cui sono in un rettilineo a velocità costante, invece noi funzioniamo in modo ottimale, quindi posso permettermi di ricatturare una fettina dell'energia che esprimiamo. Quindi il sistema software che c'è nella bicicletta riconosce questi momenti diversi, certo. Se uno sta facendo un po' troppo fatica gli dà elettricità. Esattamente, capisce quali sono le fasi della pedalata, nelle fasi che ritiene siano ad alta efficienza chiede un po', recupera un po' di energia, nelle altre fasi invece cede un po' di energia. Andiamo su un altro esempio, ora i bracci robotici o quelli delle gru fanno cose utilissime, fanno cose che noi non sapremmo fare, anche aiutando per esempio i chirurghi a fare operazioni che a mano, non si potrebbero fare, e quindi con questi strumenti la chirurgia riesce ad avere delle potenzialità molto superiori a quelle tradizionali. Ma ascoltiamo Laura Celentano dell'Università Federico II di Napoli e lei fa ricerca nel controllo automatico. Le strutture flessibili sono strutture che, sollecitate appunto da particolari forze e coppie esterne, come anche dall'azione di gravità stessa, improvvisamente, se non sono ben modellate e controllate, possono dare delle oscillazioni molto forti che poi non si arrestano in maniera subitanea. E se un robot sta lavorando in maniera significativa, è ovvio che sia un danno notevole. Se sta lavorando in un'operazione di endoscopia, cioè è pazzesco. Allora no, è impensabile di poter utilizzare una struttura del genere, perché ovviamente la persona muore. Oppure anche in situazioni magari meno gravi dal punto di vista fisico come un robot che vernice, succede di tutto. Infatti, anche in ambito edilizio ora ci sono molti robot flessibili con dei grandissimi bracci, queste gru con dei grandissimi bracci che hanno inevitabilmente una flessibilità, e si immagini i danni che possono essere prodotti in un cantiere edilizio grande, si immagini Ground Zero. Allora, con queste gru esageratamente grandi, con questi bracci lunghissimi che ovviamente hanno una flessibilità, quando vengono sottoposti ad un carico notevole, ovviamente si abbattono un po' e hanno una flessibilità. Si immagina un po', se non li si gestisce e controlla bene, che cosa può accadere. Capite, quindi abbiamo degli strumenti come questi bracci robotici, per esempio, che hanno una grande potenza, però possono soffrire di una patologia di discontrollo. Il controllo automatico gliela toglie. Va bene, questo era tutto per il controllo automatico. Adesso passiamo a bambini piccolissimi e scienza. Sono in linea con Lorenzo Monaco. Buonasera, Lorenzo. Buonasera. Giornalista di scienza, collega, quindi ci diamo del tu, e anche appartenente all'associazione tecnoscienza.it, che ha messo in piedi un sistema per insegnare concetti scientifici ai piccolissimi. Mi hanno fatto anche un libro, Facciamo che eravamo scienziati, edito da Scienza Express, e quindi io ti sento per questa cosa, per questo libro, ma anche per tutta la vostra attività. Allora, prendiamo un bambino, una bambina di 3 anni, li mettiamo sul tavolo, che è sempre carino averli lì davanti, e che cosa gli vogliamo insegnare? Ma gli possiamo insegnare, per esempio, che esiste la pressione idrostatica. E come diavolo fai? Come facciamo? Perché è un parolone difficile, un parolone che spesso spaventa anche l'insegnante, appunto, o il genitore che ha a che fare col bambino. Pressione idrostatica è un termine che non so se il bambino deve sapere o non deve sapere. Immagino di no. Cosa gli dici? Cosa gli dico? Gli faccio una domanda, perché la scienza parte dalle domande. La domanda è una domanda riflettuta. L'acqua può stringerci la mano? E questa è una domanda che faccio anche a te. L'acqua può stringerci la mano? Tu cosa risponderesti? Se metto la mano nell'acqua sento che effettivamente qualcosa, però no, sguscia via. In realtà senti il bagnato. Sì. È un'esperienza che loro non hanno mai fatto, però ci vuole poco per farla. È soprattutto una domanda a cui non sanno rispondere. Non sanno rispondere. L'acqua stringe la mano, non sanno rispondere, quindi secondo alcuni rispondono sì, altri rispondono no, altri li lascia nell'incertezza, li lasciamo in realtà nella condizione migliore per fare scienza, perché dall'incertezza loro elaborano delle idee, e soprattutto può essere quindi sì, può essere un no, l'acqua stringe, l'acqua non stringe, ma fanno un esperimento per verificarlo, un esperimento che noi vogliamo che loro pensino autonomamente. Quale? L'esperimento. Una bacinella piena di acqua, infilare la mano. Sì. Solo che l'accorgimento è mettere la mano dentro un sacchetto di plastica, uno di quei sacchetti da freezer. Quindi che non sentono il bagnato poi. Non sentono il bagnato, con quella scusa di non bagniamoci, sentono cosa sentono, in realtà vedono, sentono il sacchetto avvilupparsi attorno alla mano. Ecco. E quindi vedono palesemente che l'acqua gli sta stringendo la mano. Prima muovevano bene le dita, dopo sott'acqua, con la mano dentro il sacchetto, stretto dalla pressione idrostatica, non muovono più. Sentono una differenza, certo. Una differenza. Quindi capiscono che l'acqua ha una forza, seppure debole. Certo. E a quel punto, voi vi fermate qui, non è che poi pensate di razionalizzare di più la cosa, gli date una sensazione forte, insomma, precisa. Gli diamo una sensazione e poi gli chiediamo un fissaggio del contenuto, che può avvenire in varie maniere, però in realtà il bambino non può solamente fare un'esperienza e poi lasciarla lì, deve, secondo un metodo scientifico che è quello che vogliamo insegnare, avere delle idee, fare un esperimento e poi arrivare a una tesi finale, quindi deve dire sì, l'acqua stringe la mano, in qualche modo fissare con un'attività, con uno slogan, con un gioco che si può fare, questa scoperta. Piccola scoperta, ma in realtà molto importante per quell'età lì. Ok. E procedete così mano a mano con altri esperimenti. Sul libro ci sono descritti molti, appunto, di questi passaggi, di questi esperimenti. Ti chiedo però, Lorenzo, dici altri, immagino che non potrete affrontarli tutti, dammi solo dei titoli di altre cose tipo questa della pressione idrostatica che riuscite a comunicare bene ai piccolissimi. Per esempio la domanda, ci si può aggrappare all'aria? Ci si può aggrappare all'aria? si può aggrappare all'aria? Anche questa è una domanda che crea l'incertezza che noi vogliamo. Ci si può aggrappare all'aria se pensiamo ai paracadutisti? In qualche maniera l'aria è materia, quindi può frenare, se si corre con un ombrello aperto, l'aria può frenare, quindi in qualche maniera ci si riesce ad aggrappare e si combatte diciamo la forza di gravità. Immagino che non buttiate giù i bambini con un paracadute qui adesso, no? Immagino. No, però facciamo delle simulazioni di piccoli paracaduti con dei personaggi che fanno parte di fiabe, anche perché è importante contestualizzare questi esperimenti in un mondo che loro conoscono. A cui interessi, per esempio, noi raccontiamo fiabe, raccontiamo narrazioni che si interrompono e se non si risponde alla domanda non si va avanti, quindi il bambino è molto motivato a rispondere a questa domanda. Un garbato ricatto. Sì, è un garbato ricatto, però in realtà sì, vuol dire entrare nella loro, diciamo, mondo, nella loro mentalità. Ricordo il titolo, facciamo che eravamo scienziati, di Scienza Express. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Festival dell'Energia a Firenze, siamo arrivati alla quarta edizione. www.festivaldell'energia.it è la prossima settimana durante il weekend, noi lo seguiremo, ve ne parleremo, però oggi per lanciarlo trattiamo due argomenti che al festival verranno appunto discussi. Il primo riguarda il geotermico e per parlare del geotermico ho qui con me Giuseppe De Natale. Buonasera De Natale. Buonasera. Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Senta, rapidamente, allora, geotermia, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo andare sotto terra dove troviamo temperature intorno ai 40 gradi e questo cosa ci serve? Dunque, geotermia significa che noi possiamo sfruttare il calore della terra che c'è a una certa profondità per produrre energia di vario tipo, energia termica per il riscaldamento, per il condizionamento ed energia elettrica. Ed è lì, insomma, effettivamente è una risorsa tremendamente efficiente e assolutamente a portata di mano, soprattutto per il nostro paese. Siamo pieni, no, di territori che hanno queste caratteristiche, certo, ovunque proprio. Il nostro paese è uno dei due paesi europei che ha le maggiori risorse geotermiche per il suo carattere geologico fortemente attivo da un punto di vista sismico e vulcanico. L'altro paese comparabile con il nostro è l'Islanda. Niente meno che una caratterizzazione vulcanica. Niente meno che in Islanda. Ci sono territori interi come tutto il napoletano che potrebbero riscaldarsi, per esempio, con questa sorgente. Sì, diciamo, a parte la produzione di energia elettrica che può raggiungere anche quote importanti del fabbisogno nazionale, ci sono aree privilegiate come l'area vulcanica napoletana e quindi la stessa area metropolitana di Napoli che hanno comunque delle quasi dappertutto delle sorgenti anche molto superficiali con cui poter per esempio riscaldare gli appartamenti. Certo, certo. Ecco, però viene spontaneo pensare al napoletano e quindi a Pompei dintorni, il Vesuvio ovviamente o alla Sicilia, però c'è veramente ovunque. Sì, diciamo che dalle ricerche fatte specialmente negli anni 70 ed 80 dall'Enel e dall'Agip sappiamo che tutta l'area diciamo tirrenica dalla Toscana fino alla Sicilia ha una risorsa geotermica molto importante, certo. In alcune aree anche a profondità molto basse, però gran parte della penisola italiana ha comunque delle risorse che possono essere utilizzate per il riscaldamento e molte sono ancora da studiare perché in molte zone dell'Appennino potrebbero esserci delle risorse anche molto importanti anche per la produzione di energia elettrica. Va bene, ne parleremo a Firenze, cosa faccio? Dico io, dico lei, mannaggia, cioè bisognerebbe utilizzarla questa roba, Fermiamoci qui. Garbata protesta, però insomma, certo, è un'opportunità che stiamo dimenticando in modo colpevole. Grazie De Natale, a presto. Prego, arrivederci. Magari non sappiamo utilizzarla al meglio, ma ne abbiamo tanta. C'è una parte enorme di mondo che invece di energia ne ha veramente poco. E parlo di questa cosa con Claudio Ceravolo. Buonasera Ceravolo. Buonasera. A Firenze, al Festival dell'Energia, si parlerà appunto di coloro che l'energia non ce l'hanno. Ceravolo è presidente della COPI, che è una fondazione che si occupa da tanto tempo di cooperazione internazionale e soprattutto sviluppo. Va bene, andiamo sulle Ande dove c'è un paesino, un villaggetto. Che cosa è successo lì? Ma è successo che Coppi è presente in questa zona, si chiama Cami, da ormai da più di 30 anni. Abbiamo cominciato a lavorare quando i minatori della zona si sono trovati praticamente da soli, perché l'impresa americana che gestiva la miniera di tungsteno e altri minerali praticamente si è ritirata, se n'è andata. E quindi loro hanno cominciato a gestire da soli, praticamente in autogestione, la miniera, e Coppi fin dal primo momento li ha appoggiati. Ma lì c'era un problema di energia grosso. C'è un grosso problema di energia, assolutamente, anche perché appunto senza energia e come Cami, cioè, sappiamo benissimo che c'è 2,5 miliardi di persone al mondo, senza energia possono fare ben poco se non l'estrazione secondo i sistemi più arcaici, e quindi estrazione, quindi non raffinazione del minerale, vendita a prezzi non interessanti. E lì abbiamo avviato insieme con Terna un progetto estremamente interessante per la costruzione di una centrale idroelettrica che è in grado, al contrario, di fornire l'energia necessaria per tutte le attività civili, diciamo, della zona, scuola, ospedale, eccetera, ma nella nostra prospettiva anche proprio quella di poter introdurre quindi delle possibilità di lavorazione un pochettino più raffinate, più sofisticate. Perché qui il problema, ce l'avevo, lo diamo nei titoli, è il fatto che di solito in queste situazioni si interviene con strumenti adatti per le, come dire, risorse locali, però a un certo momento, se si vuole sviluppare, ci vuole anche l'energia, quella più pesante. Voi riuscite a creare questa mediazione, no, tra situazioni locali difficili e però, per esempio, certo, una centrale elettrica, che non è mica una robina piccolina. È proprio così, perché tutti noi abbiamo l'esperienza della piccola centrale, del piccolo pozzo gestito con che necessita di poca energia, ma se si vuol fare il salto di qualità, e col progetto piccolo si va poco lontano, insomma, se si vuol fare il salto di qualità è necessario entrare in un'ottica un pochettino più industriale, e da questo punto di vista nessuno delle nostre ONG, non solo italiane ma europee, ha il know-how necessario. Bisogna inventarsi davvero delle possibilità di collaborazione tra profit e non profit per entrare in questo campo, altrimenti le stiamo limitati ai micro progetti che fanno poca energia e quindi non vanno lontano. Non si va lontano. Ne parleremo a Firenze, grazie Ceravolo, buon lavoro. Arrivederci a Firenze e grazie a voi. Con Alessandro Belke, buonasera Belke. Buonasera a voi. Presidente di Ares, che è l'agenzia che organizza da sempre il Festival dell'Energia. Ecco, io ho già detto un po' di cose in generale, ho detto che lo seguiremo il Festival. Perché quali possono essere dei momenti particolarmente interessanti del Festival da segnalare? Ma ce ne sono chiaramente molti, non potrei dire il contrario, in particolare un paio di appuntamenti diciamo più internazionali, anche perché il Festival ha questo potere, sì, una parte dimensione internazionale. Di locale, da un'altra parte si parla chiaramente di questioni internazionali, perché l'energia è una questione internazionale. Tra questi un tema è la geopolitica del gas, la geopolitica del petrolio, e quindi quali sono diciamo quegli assetti internazionali che regolano le fonti energetiche. Vediamo la cronaca di tutti i giorni, vediamo cosa accade in Nord Africa, in Libia, eccetera. Il tema dell'energia in quelle questioni è un tema assolutamente centrale. Il sabato 24 si svolgerà un dibattito alle ore 16, molto importante, proprio sulla geopolitica del gas. Un altro tema molto importante è il cosiddetto Energy Divide, cioè a dire quel 1,4 miliardi di persone che oggi non hanno accesso all'energia. Non è un tema nazionale, è un tema globale, ma crediamo che sia assolutamente necessario inserirlo all'interno di un programma del Festival. Ricordo in conclusione che c'è un sito www.festivaldellenergia.it, lì trovate tutto il programma, e il Festival è il prossimo weekend a Firenze. Grazie Belke. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Forse arriva l'anno della luce, eh? Barbara Gallavotti, come stai? Tutto bene? Bene, bene, bene, grazie. Allora, c'è questa possibilità di un anno della luce proclamato? Diciamo, sarebbe bello se ci fosse un anno della luce. Ogni anno l'UNESCO dedica l'anno appunto a qualcosa. Il 2011 è l'anno in corso, è quello della chimica. Poi abbiamo avuto quello per la biodiversità, quello per la fisica, tante, tante commemorazioni diverse. E il 2015 potrebbe essere appunto l'anno della luce. Però si decide adesso. Si comincia a deciderlo adesso, diciamo. Per adesso si propone. La proposta viene da una signora della fisica italiana, Luisa Cifarelli. Luisa Cifarelli è presidente della Società di Fisica Europea ed è anche presidente di uno degli enti di ricerca italiani, che è il Centro Fermi. Ed è qui con noi. Buonasera Cifarelli. Buonasera. Barbara, cosa dobbiamo chiederle prima? Come siamo messi rispetto alla possibilità che... No, io chiederei prima intanto perché si pensa alla luce. Sì, dai, cominciamo da qui. Perché si pensa alla luce, Cifarelli? Perché la luce è bella, che ne dite? È essenziale per l'esistenza della vita, lo sapete bene, ha un ruolo centrale per l'umanità e poi ci permette di guardarci intorno, ci fa vedere i colori, ci incanta, la luce del sole ci riscalda. Quindi queste sono, poi una cosa che mi viene subito in mente, la luce ha delle applicazioni molteplici e favolose che hanno rivoluzionato la nostra società. Pensate al campo della medicina, che so, imaging, microscopia, strumentazione certo. laser, oppure campo delle comunicazioni, fibre ottiche, internet, campo dello spettacolo, televisione, DVD, certo. eccetera, o anche cose come il settore energetico, il fotovoltaico, il solare e così via. Può voler dire, questo è uno dei temi di cui si occuperà l'anno internazionale della luce, può voler dire per esempio sviluppo sostenibile per paesi emergenti e non solo, poi la luce è fondamentale per la ricerca e per la scienza, sia nell'infinitamente piccolo, con i quanti di luce noi studiamo le interazioni fondamentali, sia per l'infinitamente grande, la luce è il messaggero dell'universo, del cosmo. Ma come si fa a indire un anno, a dedicarlo a qualcosa? Qual è la procedura? Il primo passo è un'idea che viene da una qualche comunità, nel nostro caso la Società Europea di Fisica. Naturalmente la Società Europea di Fisica è una tra le tante ed è solo europea, quindi poi bisogna allargare la portata e quindi si passa a UPAP, che è l'Unione Internazionale della Ricerca in Fisica Pure Applicata, che ha un'assemblea generale, la quale si riunisce una volta l'anno, prossimamente si riunirà a novembre a Londra. E lì bisogna ripresentare l'idea e essere sostenuti e approvati. Terzo passo, si passa all'UNESCO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura. E lì c'è di nuovo un comitato esecutivo e un'assemblea generale. Una bella diplomazia. Il quarto passo, infine, le Nazioni Unite, l'Assemblea delle Nazioni Unite, che deve deliberare e proclamare. Quindi se uno parte nel 2011, adesso può mirare ragionevolmente al 2015. Ci vogliono 3-4 anni perché questi organismi si riuniscono una volta l'anno. Ecco, ma tutto questo sforzo perché? Perché è così auspicabile avere un anno dedicato a qualcosa che si ritiene importante? Funziona, è un motore. È un motore dal punto di vista educativo, scientifico e sociale. Per esempio pigliamo la luce, visto che stiamo parlando della luce. Noi miriamo a, non so, stimolare la curiosità del grande pubblico, migliorarne la conoscenza per quello che riguarda la luce, la tecnologia della luce. Poi, punto di vista educativo e didattico, è chiaro che se uno vuole attirare i giovani verso le carriere della scienza, dell'ingegneria, della tecnologia, deve trovare un qualche, come lei ha appena detto, un motore, un mezzo accattivante, e chiaramente la luce può essere un motore incredibile anche nei paesi emergenti, perché poi si presta a un qualcosa che è immediato da percepire. Abbiamo anche un'idea in più, cioè di integrare nell'anno internazionale della luce un progetto che abbiamo chiamato Light for Development, la luce per lo sviluppo, cioè cercare di introdurre la cultura della luce e la tecnologia della luce, promuovere l'importanza di questo aspetto nei paesi in via di sviluppo. Bene, grazie Luisa Cifarelli, aspettiamo, speriamo, buone notizie sulla luce a novembre e a presto. A presto, grazie mille a voi. Arrivederci Cifarelli, buon lavoro. Arrivederci. Che gli eventi naturali vi siano favorevoli e se non lo saranno, chiamateci, fateci delle domande, forse la scienza potrà fare qualcosa, vedremo di rispondervi. Buona settimana a tutti e tutte, ci sentiamo fra 7 giorni.